Zero. Quando sono su, pago la tarsù. Quando sono in allegria, paghi la tia. Breve, breve, brava. Brava, breve. Compro una vocale, la A di Ancona. Siamo alla lettera D. D di Domodossola. Fiato. Sì. Vedi che sono sempre fissata. Deborah non c'è e mi viene... Prova a dare la soluzione. Tari, tari, amici miei. Con Imu e Yuk sono Giacciuk. La tia per mia zia. La tari ci brucia i denari. Giro. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Avanti, non perde tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit pare. Nicoletta, un affare è un affare. Assolutamente sì. E se ci sono investimenti che valgono la pena, che non bisogna lasciarsi scappare, quindi bisogna metterci la firma. Acchiapparli al volo. Brava. Poi. Oggi nella prima parte parliamo di investimenti nel mercato immobiliare. Già sento qualcuno che storce un po' il naso. Ci sono degli incentivi, dei bonus per chi acquista una casa con l'obiettivo di affittarla. Però oggi, se non sbaglio, anche per la pagina di Cuore parliamo di un investimento molto importante. Sì, un investimento molto importante che ci sta particolarmente a cuore, l'abbiamo anticipato. Torniamo ad incentivare la prevenzione. Ottobre sarà il mese della prevenzione del tumore al seno, ne parliamo a partire dalla seconda parte della trasmissione, intorno alle 11.45. Diventerà rosa il nostro numero verde per raccontare una storia, chiedere un consiglio, lanciare un messaggio, cercare una spiegazione o segnalare un'iniziativa di prevenzione. 800 24 00 24. Adesso però iniziamo con il nostro approfondimento sulla casa, in particolare sull'opportunità di acquistare un immobile per poi affittarlo, trasformandolo quindi in un'entrata mensile. È il momento giusto per fare questa operazione? A far propendere per il sì gli indecisi potrebbero dei bonus fiscali contenuti nel decreto Sblocca Italia. Allora, 800 24 00 24, chiamateci se ne avete sentito parlare, volete avere qualche informazione in più, accarezzavate questa idea, comprar casa per darla in affitto. Iniziate a prenotare i vostri interventi. Non è Palazzo Reale, comunque è la casa di due gentiluomini. Qui comando io. Sono o non sono il padrone di casa? No. Come no? Il padrone di casa è il cavalier Terlizzi e sta dentro. Senti, senti, questo è bello. Mi sta aspettando da un'ora ed è arrabbiatissimo. Oh, senti quest'altra. E ha detto che questa volta non se ne va se non gli pagate l'affitto. Ma tu stai sentendo? No, sentite che sono sordo. Allora, come facciamo? Scappiamo. No, che scappiamo, bisogna affrontarla a qualunque costo. Il toro va preso per le corna. Già, questo pure bene. Buona donna. Buona donna, sapete se il padrone di casa c'ha le corna? Fa fuori su. Ma vuoi smettere di scherzare, sì o no? Allora, essere padrone di casa non è certo facile in questo momento, anche se non è che ci riferiamo proprio a questioni di infedeltà, diciamolo così. Sono tanti gli inquilini che non riescono a pagare e che restano indietro con le rate dell'affitto. Poi c'è la tassazione sulla casa, un tema molto caldo, in particolare in questo momento in cui ancora non si riesce a definire il contorno definitivo della TASI. Eppure per qualcuno l'idea di diventare padrone di casa, proprietario, può essere l'idea per un investimento. Oggi parliamo di chi decide di acquistare un immobile con i propri risparmi, con l'intenzione di affittarlo, ricavandone quindi una rendita mensile. Ma con i tempi che corrono è conveniente mettersi in questa situazione. Chi ci si è trovato, non per sua iniziativa, ma ad esempio perché già possiede un immobile, magari che è della sua famiglia da tempo, lo consiglierebbe? Chiamateci all'800 24 00 24, diteci se secondo voi si tratta di un investimento conveniente. Ne parliamo questa mattina perché fra le novità che si stanno guadagnando la ribalta della cronaca c'è anche il cosiddetto bonus casa per chi acquista un'abitazione per poi metterla in affitto, una misura prevista dal decreto 133, il cosiddetto provvedimento Sblocca Italia, una misura che ha diversi obiettivi dei quali parleremo tra poco. Però scusami Deborah, le buone intenzioni mi sembra che ci siano tutte, non possiamo metterle in dubbio, ma il bonus mi sembra che non stia proprio convincendo tutti. Abbiamo letto delle perplessità degli agenti immobiliari, dei costruttori edili, del sindacato inquilini, che oggi tra l'altro sentiremo. Non sono tanto convinti del fatto che questa manovra potrà permettere una ripresa significativa del settore immobiliare e la soluzione anche ai problemi di chi fa fatica a pagare l'affitto, quindi mi sembra che ci siano molte perplessità. Noi vogliamo aiutare allora chi ci ascolta a farsi un'idea propria sull'argomento. Inizieremo naturalmente cercando di capire cosa nel dettaglio prevede questo provvedimento, da quando partono questi incentivi fiscali a quanto ammontano. Buongiorno a Saverio Fossati del Sole 24 Ore. Buongiorno a tutti. Ciao, benvenuto, e buongiorno anche a Daniele Barbieri, segretario generale delle SUNIA. Buongiorno, il sindacato inquilini, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. E come appunto anticipava Nicoletta poco fa, ci darà la posizione che questa organizzazione che rappresenta gli inquilini ha su questo tema. Esatto, anche perché, come dire, tra i vari obiettivi di questa misura c'è quella di rendere un po' più convenienti i canoni d'affitto, che ovviamente sono in una situazione molto diversa nel tessuto territoriale, però in certe città, soprattutto Milano e Roma, insomma, sono a livelli abbastanza... Le grandi città sono alte. Allora, 800 24 00 24, chiamateci per conversare con noi sull'argomento. Saverio, inquadriamo subito le regole del bonus, che consiste in questa possibilità di dedurre dal reddito il 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di un immobile nuovo, ristrutturato. Intanto, che caratteristiche deve avere questa casa? Allora, deve avere essere nelle categorie di certificazione energetica A o B, quindi le massime, quindi non però nelle quindi case mediamente nuove. Mediamente il nuovo, ecco. Nelle case nuove, ovviamente, ce ne sono parecchie ormai che sono fatte in classe A e classe B. Poi non deve essere in territorio, dal punto di vista del piano urbanistico comunale, considerato agricolo, e sono escluse le case cosiddette di lusso, cioè quelle nella categoria catastale A1 signorili, A9 sono le, diciamo, gli immobili storici, ce ne sono pochissimi in Italia, e A8 che sono le ville vere e proprie. In realtà sono poche decine di migliaia di abitazioni, di nuove ne vengono fatte pochissimo, soprattutto delle A9, visto che devono essere case storiche. L'acquirente deve essere una persona fisica che non esercita attività commerciale, quindi in teoria sarebbero anche esclusi, per esempio, gli esercenti, i negozianti, che sono persone fisiche e non hanno una loro società destinata alla loro attività. E non ci possono essere legami di parentela diretta fra acquirente e venditore, quindi non possono essere padre e figlio, nonno e figlio, nonno e nipote, cose del genere. Possono essere però coniugi, per esempio, perché non sono parenti, coniugi sono una categoria. Io lo dico sempre a mio marito che noi non siamo neanche parenti. Esatto, quindi che cosa vale da te? Ecco. Perché c'è la consanguinità, una cosa che deriva dal diritto naturalmente barbarico, ma insomma esiste ancora il nostro diritto. Ecco, il risparmio effettivamente sembra forte, perché diciamo su un massimo di 300.000 euro destinati all'acquisto si possono anche comprare due case volendo, nell'ambito di questi 300.000, facciamo conto, una 200 e una 200 si possono comprare, sono devono essere abitazioni. Ah, ecco, però c'è il tetto, ecco, 20% di risparmio su un acquisto complessivo da 300.000 euro, c'è un tetto massimo. E cioè 60.000. Certo. Cos'è questo risparmio? Questo risparmio è una deduzione dal reddito. A me piace l'idea. Esatto, però non è che ce lo dà subito il venditore dell'immobile questo risparmio è proprio di carattere fiscale. È un risparmio fiscale. Allora, consiste semplicemente in questo: ipotizziamo che uno fa la spesa massima e quindi può risparmiare 60.000 euro. Questi 60.000 euro diviso 8 fanno 7.500. Questa è la deduzione dal reddito che si può avere ogni anno. Cosa vuol dire deduzione dal reddito? Che su 7.500 euro del proprio reddito non si paga l'IRPEF. E quindi chi ha un reddito più alto risparmia di più, perché siccome l'IRPEF è ad aliquote differenziate, che crescono col crescere del reddito, chi è più povero ha un'aliquota più bassa, quindi ovviamente paga meno tasse su quella scaglione, chi è più ricco ha un'aliquota maggiore, e quindi siccome i 7.500 sono uguali per tutti, ovviamente chi ha un reddito molto basso avrà un'aliquota del 21 e chi ha un del 23, scusate, chi ha invece un reddito, diciamo, diciamo quanto, sopra i 55.000 certo. euro, sì. ecco, già risparmia il 41, quindi c'è ecco. una bella differenza. Allora, abbiamo individuato che caratteristiche deve avere l'abitazione oggetto della compravendita, che caratteristiche devono avere compratore e venditore. Teoricamente il tema però è capire il canone d'affitto che si andrà a formare al termine di questa operazione. Intanto, quando, in che momento deve essere chiarito che questo immobile oggetto di questa compravendita è destinato all'affitto, perché è la condizione principale per ottenere l'incentivo fiscale? Sì, è un impegno che prende l'acquirente. Attualmente non c'è ancora, diciamo, un formulario o una cosa precisa che il notaio dovrà indicare nel rogito. Ecco, sì, si deve definire sarà, però sì. davanti al notaio, sì, nel momento del rogito. Direi di sì. Qui non lo specifica il decreto, non lo dice, ma è evidente che dovrà essere così. C'è infatti in attesa un decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con quello delle infrastrutture, che definirà tutti questi dettagli pratici, per cui certo. facciamo conto, il decreto legge è in vigore già da venerdì scorso. Se uno oggi dice adesso io lo faccio, non può ancora farlo, perché il notaio ovviamente non saprà bene, per esempio, che cosa scrivere. Certo. In ogni caso, una volta sottoscritto il contratto di compravendita, bisogna affittare questo immobile. Quindi ti devi trovare anche l'affittuario, oltre esatto. che trovare i soldi per comprare la casa. Assist perfetto ecco. per la prossima domanda. Deve essere chiaro anche nel momento in cui si stabilisce, si dice davanti al notaio. Ho capito che mancano ancora le misure attuative, quindi tutti gli aspetti tecnici, le technicality, come si dice, non ci sono ancora, ma teoricamente dovrebbe essere già definito il giorno del rogito il nome del possibile affittuario. Dovrebbe proprio essere così, cioè bisogna comprare una casa da destinare a, perché la legge non dice, non ti dà un termine, tipo entro sei mesi la devi, no, dice semplicemente da destinare a. Secondo me quando faranno il decreto dovranno prevedere un margine. E per quanto tempo? Per otto anni. Otto anni. Cioè la stessa durata del beneficio fiscale. Vado avanti, ma se poi li metti l'affittuario mi molla? E infatti altro tema che altro dovrà problema, essere disciplinato. Sì. È chiaro che dovrà essere chiarito dal decreto, perché il decreto dice, dal decreto ministeriale, perché il decreto legge 133 dice semplicemente che in caso le condizioni vengano meno, viene revocata immediatamente l'agevolazione anche per il passato. Quindi ovviamente bisognerà chiarire cosa succede quando certo. l'inquilino se ne va, perché se non puoi si trovarne un altro. Esatto, adesso sì. sentiamo il Sunia che cosa ne pensa, visto che gestisce proprio un po' questa popolazione. Però volevo fare un altro commento con Saverio Fossati, volevo aggiungere qualcosa. Sì, non abbiamo detto una cosa molto importante, certo. il canone non è libero. Ma adesso ci saremo arrivati appunto con Barbieri del Sunia. Stavamo ragionando prima sugli obiettivi di una misura di questo tipo, tu ne hai scritto tanto nei giorni scorsi sul Sole 24 Ore e avevi proprio indicato che fra questi obiettivi c'è quello di dare una spinta al mercato immobiliare, sollevando dalle imprese di costruzioni il macigno dell'invenduto, che è notevole, no? In questi ultimi anni di rallentamento del mercato immobiliare, le imprese chiaramente lasciano lì tutti questi palazzoni nuovi, e poi creare un circolo virtuoso in cui gli affitti siano un po' più convenienti a portata di mano. Però abbiamo anche detto prima con Nicoletta che ci sono state molte perplessità espresse su questa misura, gli stessi costruttori edili, Confedilizia, poi sul Sunia parleremo, gli agenti immobiliari. Chi ha voluto questa misura, se sono tutti scontenti? E il problema è che lo sconto è troppo piccolo alla fine, cioè quando vai a fare i conti, come abbiamo fatto sul Sole di qualche giorno fa, dopo lo riportiamo quel calcolo, se lo ricordiamo agli ascoltatori. Purtroppo la redditività netta dell'operazione è ancora molto bassa, nel senso che siccome il canone che uno può chiedere è piccolo, perché il canone concordato, cioè quello stabilito negli accordi comunali fra proprietà e associazione degli inquilini, in molte città comincia a essere, a Milano per esempio è bassissimo, sì. infatti lo stanno rinnovando adesso dopo 11 anni perché nessuno lo faceva. In altre città invece ormai si avvicina al valore di mercato degli affitti, allora in questo caso più o meno è diciamo conveniente. Ma è la questione di fondo che gli affitti in generale si sono molto abbassati in questi ultimi anni, più dei prezzi dell'acquisto, e di conseguenza mentre in certe aree della città, per esempio di Milano, di Roma, comunque può essere conveniente affittare anche a un canone concordato, in altre zone della città assolutamente no, e per esempio in città minori lo diventa ancora meno, certo. magari perché le case costano ma gli affitti sono molto bassi. Quindi non si è tenuto conto di una serie di fattori nel fare questa norma che fanno che poi nel concreto fa sì che la redditività oscilli intorno al 2%. Quindi diciamo, sai, che insomma deve fare proprio un bel calcolo di convenienza l'eventuale interessato a un'operazione, sì, di questo tipo, soprattutto il potenziale acquirente che poi vuol mettere a reddito questa abitazione. 800 24 00 24, facciamo ancora un po' scaldare Barbieri, magari gli, sì, mettiamo queste due telefonate a sua disposizione, no? Volentieri, andiamo prima a Roma, c'è Marco, no? Forse... prima dobbiamo andare a Pasqua, era arrivato prima Paolo, mi scusi Paolo, buongiorno a lei e benvenuto. Paolo, buongiorno. Buongiorno, grazie per darmi la possibilità. Volevo chiedere all'esperto, sì, brevemente. Mia mamma, io la porterò a casa mia, ha un appartamento di sua proprietà, pensionata, sì, vuole affittarlo. Sì. Vorrei chiedere all'esperto cosa comporta a livello di tasse annuali o mensili su un affitto di 350 euro. Mm-hmm. Quindi si deve fare un po' il calcolo annuale, bisogna vedere per quale tassazione peraltro si opta, perché c'è anche la cedolare secca. Adesso rispondiamo a Paolo che si mette all'ascolto. Daniele Barbieri, intanto lo salutiamo, anzi lo facciamo intervenire con un primo commento su questa misura del decreto Sblocca Italia. Barbieri, allora, cosa ne pensano gli inquilini? Secondo lei questa misura renderà i canoni di locazione ancora più vantaggiosi, tenendo anche conto della differenziazione territoriale che ci ha indicato poco fa Saverio Fossati? Ma per essere ancora più vantaggiosi dovrebbero essere già vantaggiosi, il problema è che non lo sono. Complessivamente nel nostro paese il livello degli affitti è, non dico neanche elevato, ma insomma è molto distante dalle capacità economiche della domanda, e questo è il problema principale. Il provvedimento di per sé teoricamente potrebbe dare dei risultati se si pensa che e nel nostro paese essenzialmente l'offerta di alloggi in affitto è garantita dalla piccola proprietà diffusa, quindi pensare di agevolare l'acquisto per dare in affitto ulteriori appartamenti da parte degli stessi soggetti potrebbe essere teoricamente una buona idea. Il problema è che i tempi sono cambiati, storicamente in questo paese è stato così fino a qualche anno fa, da qualche tempo a questa parte, anche per l'evoluzione degli strumenti finanziari, chi ha risparmi tende ad allontanarsi normalmente dall'investimento immobiliare. Questo a mio avviso è assolutamente sbagliato. Aggiungo un elemento importante, un importante di valutazione rispetto alle cose che diceva il dottor Fossati. Si compra un appartamento con un'agevolazione, si ha un vincolo per 8 anni, ma non si tiene conto nella redditività normalmente di quello che può valere quell'appartamento fra 8 anni. Ora è vero che veniamo da una fase di crisi acuta del mercato immobiliare, da un crollo dei valori immobiliari, però oggi si potrebbe comprare nella punta più bassa del mercato, quindi oltre alla redditività data dal canone c'è, cioè, molto probabilmente una redditività in conto capitale, mettiamola così, che va tenuta assolutamente in debito conto. Ma andando appunto alle alle osservazioni che può fare la platea invece degli affittuari, Barbieri, secondo lei comunque, visto che chi affitta un'abitazione mediamente, a parte le persone che si spostano per lavoro e magari abitano per 6 mesi a Roma, 6 mesi a Milano, quindi parliamo appunto di una fascia abbastanza particolare, in genere le persone che affittano sono quelle che non possono appunto comprarsi una casa, non riescono ad accedere al credito, a sostenere il peso della rata di un mutuo, quindi qualche volta un po' l'affittuario è identificato con in una categoria di maggior fragilità economica, no? Secondo lei? Assolutamente sì, è la cosa che dicevo all'inizio, cioè, il problema vero è la capacità reddituale della domanda rispetto all'offerta. Non lo dico io, non lo dice il SUNIA, ma insomma lo dice la Banca d'Italia, una fetta molto consistente, intorno al 70-80% degli attuali inquilini ha dei redditi che stanno al di sotto dei 24.000 euro lordi. Certo. Senta, è naturale che, ecco, è naturale che non può accedere alle offerte del mercato. Se questo meccanismo insieme ad altri, noi non riteniamo però che ci sia una parola magica o uno strumento magico per il quale improvvisamente l'emergenza abitativa scompaia, questo provvedimento può essere un aiuto se si chiariscono però alcuni termini. Noi abbiamo lanciato l'allarme negli ultimi giorni, c'è un rischio di confusione rispetto ai canoni che debbono essere applicati. Quindi, siccome mancano i provvedimenti attuativi, che cosa chiederete, potendolo fare appunto, che venga inserito nella disposizione attuativa? Ma intanto bisogna chiarire che i cosiddetti canoni speciali che vengono citati possono arrivare, come abbiamo detto qualche giorno fa, addirittura in alcune aree anche a 1200-1250 euro al mese di affitto per alloggi in periferia di 100 metri quadri, cioè con canoni addirittura superiori ai canoni di mercato. Quindi va chiarito che tra le due opzioni che ci sono, quella a canone concordato e quella a canone speciale, deve essere privilegiata naturalmente quella più bassa, più conveniente, ovvio. Più conveniente. Secondo elemento, lo cito perché è assolutamente importante, Fossati ha ragione quando dice che bisogna rivedere gli accordi territoriali per definire i canoni delle varie città. Noi ci stiamo attrezzando per farlo e abbiamo l'intenzione nell'arco di 4-5 mesi di rinnovare tutti quanti gli accordi territoriali nelle varie province e anche nei comuni ad alta tensione abitativa che non sono province, per renderli più vicini ai cambiamenti, alle mutazioni del mercato, compreso tra le altre cose il mutamento soprattutto delle agevolazioni fiscali nei confronti della proprietà. Non dimentichiamoci che poco tempo fa questo governo ha portato al 10% la cedolare secca per il canale agevolato, quindi questo è molto probabilmente uno strumento più valido di quello approvato, varato con il decreto legge 133, ma ha bisogno di una revisione generale degli accordi territoriali. Allora, ci ritorniamo, Barbieri, con Fossati fra qualche istante, è tempo di andare a raccontare la borsa e dopo spieghiamo anche all'ascoltatore tutta la tassazione sull'affitto, come viene disciplinata. Cuore e denari. Sei cresciuta ormai? Sì, conosco la procedura. Controlli regolari e autopalpazione. Comincerò da quelli, credo. Bene. Ma non solo, ora la prevenzione diventa 2.0. Proprio in questi giorni, infatti, due iniziative nate dal web sono diventate virali. Così su Facebook, Twitter e Instagram si è diffuso velocemente l'hashtag Fate Vedere le Tette, attraverso il quale ogni donna può inviare un selfie del proprio seno con la scritta prevenzione. E poi c'è la campagna promossa da Acto, Onlus, l'alleanza contro il tumore ovarico. Attraverso la pagina Facebook dell'iniziativa potete caricare un selfie accompagnato da un messaggio proprio volto a informare tutte le donne circa l'importanza di non sottovalutare questo killer silenzioso. Di tumore ovarico non se ne parla quasi mai, se ne parla molto poco, noi donne non lo conosciamo, lo confondiamo con il tumore dell'utero, ma è molto aggressivo, lui ci conosce bene. Quindi una prevenzione al femminile che faremo grazie alla partecipazione qua proprio in onda con noi di una grande esperta, la dottoressa Maria Giovanna Luini, senologa IEO. 800 24 00 24, a partire dalle 11.45. Eccoci la nostra regia. Allora, grande disimpegno da modificare come meglio crede. Questa parete può andare giù benissimo. Questo era un vecchio cesso, un vecchio bagno. Qua la finestra si può chiudere e fare un grande lucernario da sopra con una bella luce che scende giù e poi la vasca si sposta come gli pare. E adesso sa dove entriamo? Entriamo nel punto di diamante della casa, il salotto. Senta, ma non è un po' troppo piccolo? Marcello, stammi a sentire. Tu questa casa non la capirai mai se la vedi così com'è. Tu te la devi immaginare per come sarà. Hai capito? Immaginare per come sarà. Vuoi che te spiego come la vedo io? Dovremmo fare anche delle buone previsioni per quello che riguarda la tassazione sulla casa. C'è stata grande incertezza negli ultimi anni e questo ha probabilmente portato anche un po' questo rallentamento del mercato immobiliare, e naturalmente la causa principale è stata la mancanza di credito, la disoccupazione di molte persone, che chiaramente è una condizione che impedisce di fare grandi progetti, soprattutto se legati alla casa, quando questo è ovviamente un impegno economico così importante. Tina ci scrive: non solo nelle grandi città, anche nei piccoli centri dove tutti si conoscono ci sono problemi. Se chiedi una ricevuta ti guardano come se togliessi il pane. Oggi affittare è un rischio. Una mia amica ha dovuto ricorrere alle vie legali per rientrare in possesso del suo appartamento dato in affitto. Il tema è proprio questo. A prescindere dalla, come dire, validità di questa iniziativa, Saverio Fossati, io compro una casa con l'obiettivo di darla in affitto. Lo Stato mi riconosce questo incentivo fiscale del 20%. 20%, spalmato naturalmente su 8 anni, ma in questi 8 anni la relazione con l'affittuario può cambiare 12.000 volte, no? Quindi sarà un punto su cui la norma dovrà disciplinare molto attentamente, immagino. Uno dei primi interrogativi che ci siamo posti quando abbiamo letto la norma: non si dice cosa succede quando l'inquilino se ne va o quando viene cacciato perché non paga l'affitto. O quando non paga l'affitto e rimane. Rimane. Finché non viene cacciato, perché è proprio una donna di denari. Un annetto di sfratto ci vuole di procedura più o meno va via. Non c'è scritto, ma il problema non è solo appunto che magari l'inquilino rimane e non paga l'affitto, è che viene revocata l'agevolazione, quindi se non è affittata, no? E quindi sicuramente nel decreto, nelle sede di conversione del decreto legge 133 o nel decreto attuativo infrastruttura economia, bisognerà chiarire anche sicuramente questo aspetto. Senti, rispondiamo all'ascoltatore che ci ha chiamato prima. Due indicazioni veloci, non era sul tema di oggi, ma sua mamma va a vivere con lui. Questa sua mamma ha una proprietà immobiliare che vuole dare a questo punto in affitto. Il canone ci ha anche detto 350 al mese. Esatto. Quali sono le tasse che si pagano su questo reddito? Ovviamente chiederà la cedolare secca, perché nessuno più paga l'IRPEF, a meno che non abbia un reddito bassissimo, diciamo del 21%, sotto il 21% di aliquota marginale. E quindi pagherà circa 850 euro, perché l'affitto annuo è di 4.200 euro lordo, quindi siamo sugli 850 euro di cedolare a libero mercato. Che percentuale è? È il 23% ed è la cedolare per il libero mercato. Se invece l'affittasse a canone è concordato, siccome non so dov'è, quindi non è impossibile fare conti. Torino? Mi sembrava Treviso. A Treviso, sì, ma io non conosco il canone concordato di Treviso, perché ci sono 8.100 comuni. Adesso però mi cade un mito, Ci sono 8.100 comuni e 8.100 accordi, ecco. In quel caso però la cedolare è il 10%, quindi è molto facile da calcolare, ma immagino se a Treviso sono sicuro che i 350 euro al mese siano a canone libero. Allora, un paio di domande di due ascoltatori, poi un ultimo flash anche con Barbieri. Facciamo Giuliana da Vicenza. Buongiorno Giuliana, rapida, grazie. C'era anche Marco Poverini. Buongiorno a lei, grazie, complimenti, maestri della radio siete, complimenti. Le maestrine della radio siamo? No, ha detto maestri. Bravi, complimenti. Grazie, allora, ecco, Giuliana, non ve li meritate. Allora, niente, io volevo chiedere una cosa. Io ho un figlio di 34 anni che ha intenzione di investire i suoi soldini che ha raccimolato in questi anni che lui lavora. Il problema è questo: lui per il momento avrebbe intenzione di vivere ancora con noi, anche perché è un po' furbetto il ragazzo, sta bene con noi e dice io lo fa fare di uscire. Però allo stesso momento ha intenzione di investire quei soldi che ha. Non avrebbe neanche bisogno di fare finanziamenti, cose del genere. Ok, cosa vuole sapere Giuliana? Conviene fare una cosa del genere, comprare un appartamento nel 2014 per affittarlo? Giuliana, bisogna fare un po' di conti. Cosa succede a Vicenza? Che cosa vuole fare di questo appartamento? Ci vuole andare ad abitare fra un anno, fra 10 anni? Vuole metterlo in affitto? Deve comunque pensare di immobilizzare questo investimento per un tot di tempo? Devi farsi magari una bella chiacchierata? Magari poi cambia idea, si innamora. Qui Giuliana, bisogna vedere, cioè questo secondo me il mattone Saverio, io non so tu che cosa ne pensi, è un investimento che, come dire, va valutato a seconda del fatto che la casa la si voglia abitare o la si voglia mettere a reddito. Allora, siccome lui non ci vuole andare, vuole metterla a reddito, allora la redditività, l'abbiamo detto all'inizio, difficilmente arriva al 3%, la redditività netta, difficilmente arriva al 3%. Allora, certamente, quindi, sempre considerando meglio di che un titolo di Stato, bravo. Considerando che i BTP magari sono due qualcosa. Però gestire una locazione è una grandissima scocciatura, è un grandissimo impegno. E bisogna anche preoccuparsi del fatto che l'immobile sia sempre occupato, sempre affittato, con un inquilino come si deve. I BTP non ci pensi più, e quindi va considerato anche questo aspetto. Poi c'è la rivalutazione, quella che diceva prima Daniele Barbieri, cioè la casa oggi la compra 200 e fra 8 anni quanto vale? Come 300, ovvio. Può essere anche meno, appunto, come è successo chi ha comprato la casa 8 anni fa, cioè il famoso ciclo dell'orologio immobiliare che durava 8 anni, no? 8 anni il picco, poi scendeva giù, poi risaliva e non funziona più. Purtroppo abbiamo dimostrato che non funziona più, quindi chi compra una casa non deve contare molto, credo, su una vera rivalutazione, forse una rivalutazione, non so, dell'1%, 2% anno, in questo caso vabbè, ma si tratta di cifre molto piccole considerando comunque l'impegno di avere una casa e di affittarla. Certo. cuore e denari. Un altro paio di minuti di tempo dedicati appunto al tema di questa mattina. Daniele Barbieri, segretario generale delle SUNIA. Peraltro adesso abbiamo lasciato molti ascoltatori che erano pronti ad intervenire. Chiedo un po' un commento, se vuole, anche all'ultima ascoltatrice che ha chiamato sul caso dell'ultima ascoltatrice. Comprare per mettere in affitto, chiaramente lei mi darà il punto di vista di chi potenzialmente cerca di andare ad abitare in affitto. Un'altra ascoltatrice voleva intervenire dicendo che comunque non conviene l'investimento immobiliare, la tassazione è molto pesante, ma insomma, Barbieri, qua accontentare tutti è sempre molto difficile e il contesto di mercato sicuramente adesso non permette a tutte le parti in causa di mettersi d'accordo facilmente. Sicuramente sì, però insomma, io volevo rapidissimamente segnalare un fatto rispetto alle cose che diceva il dottor Fossati. È sicuramente vero che investendo in BTP o in titoli di Stato comunque si investe e non ci si pensa più, ma gli stessi titoli di Stato sono soggetti sono andati sull'otto volante negli ultimi anni con appunto, lo spread, ecco. Però la casa aumentano i rendimenti, diminuisce anche il valore, hanno esattamente lo stesso effetto della caduta dei valori immobiliari, e storicamente i valori immobiliari comunque sia sono stati un'assoluta garanzia se guardiamo sui tempi lunghi. Quindi guardi, Daniele Barbieri, ce lo dicevamo anche a microfoni spenti, in realtà poi il valore della casa, insomma, ha anche un altro significato per l'italiano che compra la casa per abitarci, se ne prende cura. Peraltro ne parleremo anche settimana prossima al Cersaie con Nicoletta, perché andiamo a Bologna in trasferta. Sì, facciamo questa trasfertina a Bologna. Parleremo di casa da ristrutturare, renderla bella, quindi c'è anche un valore aggiuntivo. Ultima raccomandazione, Barbieri, agli inquilini che in questo momento qualcuno è certamente in difficoltà e non paga l'affitto perché non riesce, quello è quello che ha magari un buon rapporto con il proprietario, glielo dice, ci si mette d'accordo. Insomma, qua però abbiamo anche un po' di mondo popolato da qualche furbetto. Che ne dice? Assolutamente, noi i furbetti non li difendiamo, ecco. Difendiamo le persone, gli inquilini onesti che vogliono regolarmente pagare l'affitto e che non lo fanno perché magari non arrivano veramente alla fine del mese. Qui la necessità è di avere un quadro un po' più definito sul regime delle locazioni, non bastano provvedimenti estemporanei come possono essere anche quelli di cui abbiamo parlato oggi, è necessario affrontare seriamente il disagio abitativo puntando essenzialmente a due questioni: un piano serio di edilizia economica e popolare e sociale, cosa che attualmente non c'è, con finanziamenti pluriennali, e un meccanismo di sostegno al reddito che in qualche modo aiuti nel momento della difficoltà agli inquilini. Oggi ancora non abbiamo. Ma c'è il provvedimento sulla morosità incolpevole, mi sbaglio? C'è un provvedimento sulla morosità incolpevole, ma la dotazione è assolutamente insufficiente rispetto ai numeri che abbiamo. Ne faremo allora una puntata specifica. Grazie a Daniele Barbieri, grazie segretario generale del SUNIA. A presto, grazie anche a Saverio Fossati, quando avremo, come dire, misure attuative di questo decreto legge, l'articolo 21 del decreto 133, sì. Mi ricordo male, decreto sblocca Italia, rifaremo un'altra puntata, quindi a bocce ferme. Saverio tornerà a trovarci. Ma naturalmente. Con piacere. E anche Sabasanti. Grazie. Siamo così dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci ancora qui nelle sere tempestose. Portaci delle rose, nuove cose, e ti diremo ancora. E allora oggi vi invitiamo a parlare in questa seconda parte della trasmissione di noi donne, ma non solo di donne, parliamo di prevenzione. Può essere anche questa l'occasione per fare una riflessione sul corpo, su quello che ci dice, su quello che ci nasconde, sui segreti che possiamo svelare. Pensateci, il nostro corpo ci è familiare, no? Non c'è niente di più familiare, di più intimo, eppure tante donne ancora non lo conoscono, lo vediamo, lo tocchiamo, ma a volte non lo ascoltiamo, ne abbiamo quasi paura. Qui in studio, ve l'abbiamo anticipato, abbiamo una grande amica di Cuore Denari. Altro che. Che a me, a Deborah, una delle piace. Migliori amiche di Cuore Denari. Una direi. Delle migliorissime. Rafforzerei il concetto. Che bello. Che bello. Benvenuta. Buongiorno. Buongiorno alla dottoressa Giovanna Luini, senologa dell'OIEO. Dottoressa, una puntata dedicata alle donne, ma io ho detto non solo. No, non solo alle donne. Perché le donne effettivamente sono il centro del mondo, lo sappiamo. E infatti va bene, no? questa è una battuta naturalmente, però la prevenzione, la salute, il benessere, l'attenzione riguardano uomini e donne, questo è evidente. Allora, io prima di entrare un po' nel merito, intanto invitiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici a chiamarci all'800 24 00 24, un numero verde che per l'occasione diventa rosa, anticipa un po' anche il mese della prevenzione che è ottobre. Un'ascoltatrice ci scrive, Antonella, ma buongiorno, scusate, ma di quale prevenzione state parlando? Ma lo sapete che le liste d'attesa sono bibliche e che non tutti possono permettersi strutture sanitarie private? Allora rispondiamo subito ad Antonella, che solleva un problema che è reale. La risposta è sì. Lo sappiamo, non ci piace, non siamo contenti. È vero però che, per esempio, con il sistema sanitario nazionale è possibile richiedere prestazioni in urgenza quando il medico di medicina generale ne ravvisa la necessità e quindi fa la richiesta specifica. Questo sicuramente non consola, non è la risposta. No. È qualche cosa in più che effettivamente abbiamo a fronte però davvero di un problema reale di liste di attesa diffuso. In quale altro modo possiamo in qualche modo contrastare? Insomma, fare un po' necessità virtù. Sappiamo che i controlli vanno fatti, non è che ci cadono nel nostro quotidiano dall'oggi al domani. C'è un calendario dei controlli. Prima di tutto l'organizzazione, come dite voi, come insegnate voi, sia in ambito di salute che in ambito economico, no? L'organizzazione, organizzarsi, sapere che possiamo programmare i nostri controlli nel futuro e quindi prendere gli appuntamenti anche per il prossimo controllo tra un anno, là dove è possibile, ma di solito è possibile in effetti farlo. Poi c'è un'altra cosa che di solito non piace, è estremamente impopolare, ma bisogna che siamo concreti: le assicurazioni malattia. Le assicurazioni malattia oggi servono assicurarsi e quindi avere qualcuno che ci aiuta a pagare laddove l'esame è da pagare, per esempio. Una bella puntata di Cuore Denari già preconfezionata con questo. Assolutamente, perché direi. Vogliamo dare anche delle indicazioni, perché Antonella ha ragione. Sì, ma ecco, quello che io vorrei dire alle amiche con cui mi incontro spesso e con cui affrontiamo anche questi temi è che non deve essere, è vero, non ci facilitano la vita, ma questo non deve essere una buona ragione per non occuparci di noi. Cioè, la nostra salute è troppo importante. Cuore e denari. Donne, in cerca di guai. Donne, un telefono che non suona mai. Io non so se ce la faccio, però ve lo dico con il cuore: non rimandiamo, non troviamo scuse, vinciamo le nostre paure, le ritrosie, troviamo il tempo. E aiutiamo un'amica a farlo, perché insomma sulla prevenzione noi donne siamo attente, ma non sufficientemente attente. Tendiamo sempre a rimandare il problema, forse perché abbiamo paura, ma ci sono degli appuntamenti che possono salvare la vita, intervenire rapidamente vuol dire veramente dare anni di vita e qualità a quegli anni. Quindi io ve lo chiedo, vi faccio proprio questo appello a cuore aperto, da donna di cuore. 800 24 00 24, oggi parliamo della nostra salute, dei controlli che dobbiamo fare. E dato che la parola prevenzione è una parola che per molti di noi è ancora una parola difficile, allora vogliamo chiedervi proprio di lavorare su questa parola e sul concetto che c'è dietro a questa parola. Proviamo a creare uno slogan, lo mandate a noi all'800 24 00 24 e noi vi ricambiamo con delle parole. Esatto, abbiamo peraltro questa mattina proprio a disposizione addirittura 6 volumi che la dottoressa Luini, che tra un attimo ricordiamo, ancora ripresentiamo, ha portato appunto a Cuore Denari. Il primo è L'età della donna, diario del corpo femminile. L'altro, scritto naturalmente in accoppiata con una grande firma, quella di Umberto Veronesi, Oltre il dolore, viaggio nel senso profondo della vita. Per cui, così, questa mattina attivate la vostra fantasia, ma soprattutto la vostra sensibilità attorno a questi argomenti. Metteremo naturalmente tutte le frasi, tutto lo slogan sulla prevenzione che voi ci racconterete al nostro numero verde, che per oggi diventa rosa, anche sulla nostra pagina di Facebook, e possiamo, con cui che vogliamo proprio diventi una rete che aiuti il cuore, certo. denari. 800 24 00 24. Deborah citava Veronesi, che ha più volte detto, dottoressa Luini, che non è difficile togliere un tumore dal seno di una donna, il difficile è toglierlo dalla testa. Il difficile non è sopravvivere e guarire dal tumore al seno. La ricerca è andata avanti, ci sono, e i tassi di sopravvivenza sono assolutamente migliorati, ma è difficile sopravvivere ai cambiamenti, alla vita, alla difficoltà che un cancro al seno comporta nella testa di una donna. Pensiamo al rapporto che cambia con il proprio corpo, ma anche con il compagno, con i figli, cambia il rapporto con la vita. Sì, assolutamente. Assolutamente. La malattia diventa dominante, e questa è la cosa peggiore in assoluto. Entrano l'angoscia, l'ansia, la paura, e queste sono assolutamente comprensibili, ma soprattutto la persona non si sente più persona, si sente malata. Le donne che vengono dopo un tumore al seno a fare i controlli dicono: io sono una paziente. No, tu sei una donna. Che è la cosa importante, però la parola che usiamo per definirci indica ciò che noi pensiamo di noi. Se crediamo di essere malati, noi diventiamo la malattia, e quindi perdiamo tutto ciò che di bello abbiamo, tutte le passioni, l'amore, tutti quegli aspetti di noi che devono rimanere comunque. Dottoressa Luini, la Società Americana di Oncologia ha stilato un elenco dei campanelli d'allarme riservato alle donne, non, insomma, riservato è una parola eccessiva, insomma, suggerito per in modo da orientarsi tra un'attenzione e al problema e invece una quasi una condizione che ci può far sottovalutare questa cosa, cioè un segnale che sentiamo e diciamo: va bene, dai, domani mi passa, cosa che noi diciamo spesso e che è giusto fare, no? Allora, quali sono questi campanelli d'allarme? Breve premessa: quando si elencano sintomi o segni succede di tutto, quindi io li elenco, però non significa che chi li ha sia necessariamente malato, lo dico perché altrimenti si genera veramente paura. Questi sono: perdita di peso immotivata, di solito è più del 10% del proprio peso negli ultimi mesi, gonfiore addominale, cambiamenti a carico del seno, quindi diversi cambiamenti a carico del seno, perdita di sangue tra due cicli mestruali, alterazioni della pelle, sanguinamenti non comuni, cioè non giustificabili con cause benigne e normali, cambiamenti a livello della bocca, dolore che non passa in diverse sedi corporee, linfonodi ingrossati, febbre persistente, stanchezza che non ha motivo e una tosse persistente. Questi sono i segni e i sintomi che sono indicati. 800 24 00 24, continuate a mettervi in contatto con noi, potete intervenire per così raccontarci uno slogan, ideare uno slogan per la prevenzione, per portarla proprio vicino alle donne, per arrivare al cuore, alla testa delle donne, oppure per raccontare delle vostre esperienze, fare una domanda. Ci sono anche tanti luoghi comuni, è vero, ci scrive Bruna, che la mammografia fa male e durante l'esame può danneggiare le ghiandole del seno? Allora, questa credenza in realtà nasce da un dato oggettivo: la mammografia usa radiazioni X. Sì. Quindi quando si parla di radiazioni scatta il panico. In realtà la mammografia, ripetuta una volta all'anno, non crea un rischio a livello del seno. Quella radiazione assorbita è molto piccola, e soprattutto il bilancio tra il rischio derivante dall'uso di radiazioni e il beneficio in termini di anticipazione della diagnosi di un tumore al seno è assolutamente a favore del beneficio, quindi si vive di più con la mammografia ripetuta regolarmente. Addirittura le percentuali dicono che c'è un guadagno quasi del 50% in termini di minore rischio di morire di tumore, quindi sono veramente percentuali alte. Quindi non è che sia una leggenda che la mammografia usa raggi X, è vero, però nel bilancio rischio-beneficio non c'è dubbio che tutto è a favore del beneficio. Abbiamo detto abbiamo citato il suo libro, che oggi ci auguriamo di far arrivare a tante amiche. Ci stanno già scrivendo con delle belle idee. Per L'età della donna, diario del corpo femminile. Parliamo anche dell'età della prevenzione. Quando si iniziano a fare i controlli? L'indicazione alla popolazione generale, quindi a tutte quelle donne, adesso parliamo di donne, che non abbiano fattori di rischio specifici, per esempio una mutazione genetica familiare, è che si inizia più o meno dai 30 anni. Il primo esame senologico è un'ecografia mammaria bilaterale che andrebbe ripetuta ogni anno. Dai 40 si comincia anche con la mammografia, tenendo sempre l'ecografia, quindi l'ecografia non si butta via, sono due esami importanti. Che possiamo dire, dottoressa Luini, sono complementari? Sì, non vedono la stessa cosa. Ecco. Quindi vanno tutte e due eseguiti finché sarà poi il radiologo o la radiologa a dire, ma dopo anni, perché di solito ciò accade dopo i 60 anni di età, che l'ecografia non serve più. Quindi dai 40 anni si va avanti con l'ecografia annuale. La mammografia di solito tra i 40 e i 50 si fa ogni due anni, ma ogni situazione specifica deve essere valutata dal radiologo, perché alcune donne dai 40 già annualmente fanno anche la mammografia. Sì. E dai 50 si va avanti ogni anno. Controlli che vengono anticipati per le donne che presentano storie familiari. Esatto, esatto. Quando c'è una storia familiare di tumore non significa necessariamente che ci sia una mutazione. Però se esiste il sospetto che in famiglia ci sia qualcosa che non va, allora si va in un centro di eccellenza, ce ne sono tanti sul territorio italiano, e si chiede una valutazione. Sì. La valutazione si basa prima di tutto su test, un sacco di domande che riguardano la famiglia, l'albero genealogico. Esatto, la familiarità riguarda solo il genitore o anche tutta la famiglia. Si indaga veramente a fondo tutta la famiglia, si vede anche qual è la malattia eventualmente ricorrente. E solo in alcuni casi si arriva poi al test genetico vero e proprio che cerca le eventuali mutazioni del DNA. Ma per fare chiarezza, queste mutazioni genetiche familiari, per esempio nel caso del tumore al seno e dell'ovaio, riguardano un 5-7% dei casi di tumore, quindi sono rare anche se importanti. Allora in quei casi lì, quando c'è il sospetto o c'è una documentazione proprio di rischio genetico, i controlli sono un po' più intensi e diversi. 800 24 00 24, abbiamo due ascoltatrici in linea, aspettiamo naturalmente al nostro numero verde i vostri messaggi di prevenzione rosa. Da chi andiamo? Cominciamo con Maria Teresa da Novara, che si era prenotata per prima. Maria Teresa, buongiorno, benvenuta a Cuore Denari. Maria Teresa? Pronto? Sì, ci siamo, eccoci a lei. Buongiorno. Pronto? Maria Teresa? Ci sente o no? Non ci sente? Allora andiamo a Paola. Sì, Paola da Roma, buongiorno Paola. Buongiorno a voi. Dunque, io do il mio piccolo contributo. Grazie. Un attimo di defaianza, perché lo vivo. Paola, noi la ringraziamo e siamo assolutamente con lei, perché la condivisione è assolutamente importante, serve anche un po' a toccare il cuore delle persone che questa le malattie la sentono solo raccontare, la vedono sempre lontana. Grazie Paola. No, grazie a voi. Dunque, io il primo tumore l'ho avuto nel 2007, non avevo casistica in famiglia e me ne sono accorta quando era un periodo di fortissima stanchezza, come diceva la dottoressa. Sì. Piangevo perché ero sempre stanca, non ce la facevo a fare nulla, mi si spaccavano i denti. Dopodiché una mattina ho sentito questo forte dolore al seno. Signore, ti ringrazio, ma le premetto che l'anno prima io avevo fatto per scrupolo una mammografia. Sì. E avevano riferito che non c'era nulla. Quando me ne sono accorta, dalla sera alla mattina era già 1,6 cm, quindi quadrantectomia, chemioterapia, radioterapia, con tutto ovviamente una conseguenza di compromissioni a livello proprio psicologico, no? Perché comunque un tumore è devastante. Bene. Nel 2012 avevo questi fortissimi dolori sempre alle ossa, questa stanchezza fortissima. A un certo punto io con l'autopalpazione ho sentito che sotto il capezzolo destro avevo un bozzo, e chi è passato già per questa esperienza ha pochi dubbi, nel senso che nonostante i controlli serrati, con TAC, risonanze e quant'altro, la TAC dell'anno prima era negativa, così era scritto. Non vi faccio i nomi degli ospedali perché è inutile e non voglio neanche metterlo in ballo, io ho i referti scritti, quindi parlano da soli. Quindi a quel punto adesso Paola, a che punto è arrivata del suo percorso? il mio percorso io lo spiego subito, che per mia pigna riesco a farmi fare, perché un radiologo di un ospedale di Roma ha scritto che non avevo nulla. Riesco a farmi fare una risonanza a contrasto specifica per le mammelle, erano 5 tumori, quindi multifocali con micrometastasi ascellari. Paola, questo in 15 giorni. Io vorrei chiederle, mandi un messaggio, un invito alle donne che ci ascoltano, proprio sulla base della sua esperienza, che è stata un'esperienza molto faticosa e dolorosa. Alle donne io che ci ascoltano. Faccio questo mese, faccio il quarto intervento in un anno. Sto aspettando giorni che mi chiamano. Il messaggio di speranza è questo: non mollate mai, mai, assolutamente, mai controlli. Se avete un benché minimo dubbio, allora non cedete, perché a livello psicologico è una tragedia. Paola. Paola, io la ringrazio, l'abbraccio, le faremo ricevere a casa naturalmente anche il libro di Giovanna Luini. Paola ci ha raccontato nella sua esperienza, come sottolineava la dottoressa Luini, mammografia e anche ecografia non basta, ma io oggi voglio parlare anche di un altro tumore che colpisce in modo indistinto le donne che abitano luoghi del mondo più o meno sviluppate, registra un tasso di sopravvivenza molto più basso rispetto a quello calcolato del tumore al seno, un tumore che noi spesso non conosciamo, che confondiamo. Parlo del tumore ovarico. In linea con noi abbiamo il piacere di avere Nicoletta Cerana, presidente Acto Onlus, Alleanza contro il tumore ovarico, un'associazione che sta facendo molto per informare le donne. Dottoressa Cerana, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a tutti. Allora, dedicheremo poi una puntata più approfondita. Le donne non lo conoscono, lo trascurano, lo confondono. Acto invece mette le parole e le faccia, le parole di una guida, dottoressa Cerana. Sì, diciamo che di questa malattia si parla veramente poco, quindi noi, per rompere il silenzio che circonda il tumore ovarico, stiamo organizzando Scatti di Energia, che è una campagna nazionale di informazione ed una mostra fotografica in cui ci abbiamo invitato a metterci letteralmente la faccia, 10 testimonial famosi. Ma possono metterla tutte le donne? Adesso sì. Dalla redazione di Radio 24 mi anche arriveranno. Deborah, sì, e con pronte. Me la dottoressa Luini, metteremo tutte alla faccia, ma poi sul sito, dottoressa Cerana, c'è sul una sito guida. È possibile, certo, sul sito è possibile scaricare gratuitamente il decalogo, un piccolo decalogo che serve per conoscere velocemente la malattia. Poi si può scaricare sempre gratuitamente la guida alla malattia, che insegna a conoscerla, a conoscere i sintomi premonitori, a parlarne con il proprio medico, a trovare i centri specializzati nella cura di questo killer terribile che va curato solo nei centri specializzati. Ma bisogna parlarne, e quindi noi ringraziamo l'impegno di Acto Onlus. Ne parleremo più approfonditamente. Grazie alla dottoressa Cerana, alla nostra dottoressa Luini. Grazie. E noi ci ritroviamo domani. Buona giornata a tutti.